possibile connettersi al server. Si prega di controllare le impostazioni di connessione e riprova. Ma che? Ma cosa vuoi? Ma no, ma dici cosa vuoi fare? Cioè, secondo te un telefono ti dice cosa vuoi fare? Esatto. Ehi, Flaps, cosa facciamo? Non lo so. Tu cosa vuoi fare? Beh, va là. Allora cosa facciamo? Non lo so. Tu cosa vuoi fare? Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa. Ok, tu cosa vuoi fare? Oh, per la miseria, ci risiamo sempre la stessa musica. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Bene, questa è la musichetta che introduce il concorso. Scrivi una scenetta con Gildo, Ioris, il caposcout e il bidello senza palato e naturalmente il bambino Alberto, e noi la metteremo in scena. Parole chiave da usare: mamma, gomito del tennista, senso di colpa. Ma scusa, era arcata sopraccigliare la seconda parola chiave. Vabbè, ma fa lo stesso, dai. Allora, primo tema, una brutta figura. Quindi postate i vostri script sulla bacheca Facebook di Chiedo Asilo. E se invece siete dei tipi riservati, attenzione, suora, suora. Ecco, postateli, allora mandateci anche un messaggio privato. E anche un kazoo nuovo, perché sto qua. Mando al medico questa manovra, bombarda i redditi medi e bassi, ma non risolve il problema dei conti pubblici, per cui tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Assessore non vuol dire assessore, no, ma vuol dire ascensore in bambinese. Oh. E si può dire anche censore e sciore. Sciore. Vedi? Sciore, sciore. No, ascensore. Sciore dei quelli che arrestano sono comunque ascesciori anche quelli, secondo me. Fanno dei gran sciorrisci. Fanno dei gran sciorrisci e si mangiano l'amburia o l'anduia o la guia, che è l'anguria. Capito? Sì, oh, no. Finalmente c'è un libro utilissimo per capire i bambini. Finora c'era sempre questo problema che i bambini piccoli cercano di parlare e nessuno li capisce, no? Uno si deve arrangiare, così cosa avrà detto? Invece adesso c'è il vocabolario italiano bambinese, bambinese italiano, un bilingue. Bambinese. E quindi praticamente adesso tutti i genitori andranno in giro per casa. Potranno dire ich bin ein Bambiner. Esatto, come aveva fatto John Fitzgerald Kennedy a Berlino nel 1960. Sì, però perché è italiano berlinese. No, bambinese. Ah. Per dire ad esempio zanzara, tu dicevi dall'A alla Z, abbiamo fatto tutti gli esempi con la. Sì. Con la Z abbiamo zabaione, che è una parola usatissima dai bambini, è abione oppure babaione, e poi la zanzara, la famosa zizza o zazzara. Ah, bisognerebbe dirlo al nostro amico lì. Eh? Il nuovo programma Zizza con Stranangoni. La zizza para. Pari o para? La zizza para, che sarebbe le zizze, sì, sai, para. Però non sono mai uguali una all'altra. No, quindi non sono para. Non sono zizze pare. Non sono neanche zizze, perché la zizza è la zanzara. La zanzara è la zizza. Fai vedere le zizze e zizze. Ma chi? Non so. Oddio. Oh no. C'è il bidello afono. Ehi! Quella, ma è quella lì? Andando con la lì? Sì, io sto andando. Dai, vai, dai. Sto andando al bagno, devo andare al bagno. Al bagno? Andando, non mi sei andato. Cioè, no, io devo fare la pipì, no? Ma conta, ma non sei appena andato in irrigazione? No, sono andato e sono arrivato prima, adesso mi scappa la pipì, non è che. È una cosa a comando. E allora vai. Io devo passare lì, mi fa passare. E c'è la segatura per terra, posso. Ho capito, ma io camminiere. Non è che non qua porta per te io. No, è camminiere. Dentro bambini qua. Ma io cosa c'è? Tu sei sempre in giro a fare un cazzo. Ma io devo andare al bagno, non chiedo aiuto a nessuno, faccio da solo. Ho capito, no? Allora con le micchieni. Con la dipelmi, mai. Ma devo passare di lì, c'è la segatura. Poi lei quando passo magari mi dice che. Da, quello prima, Nini, mi ha detto che tu non sei. Sei un bambino un po'. Io no, non mica voglio di fare con te ogni volta. Ma io non posso. Non lo voglio, vai. Ma lei non ha una specie di, come di una guida, qualcosa per. Un libretto di istruzioni per la comprensione. Io non sono qui. È che io non capisco cosa dice. Capito? Ecco, io non sono qui per te. Ancora, io non sono qui a scuola per te. Io non voglio lavorare perché mi mancano i soldi. Se la famiglia non può dare i soldi, dici, domanda mia. E se tu non vieni qui, vai perché me. Insomma, io qui ti prendo e dopo mi dicono le gambe scoppiare. Ma non per una cosa, perché sono qui a lavorare, non per te. Io devo andare a lavorare perché io sono la famiglia di due figli e sono anche 2 anni. E non si continui a chiedermi le cose a te. Io non devo dire niente a te. Io devo lavorare, insomma. Non riesco a trattenerla. Allora mi dà un po' di segatura che. Ma quale segatura? Vai in classe! Vai in classe! Hai capito? Ma no! Ascolta, guarda che in classe non devi più tu, perché ti spacco le gambe! Vai in classe! Ce l'hai 250.000 sterline? Adesso? 300.000 euro in pratica. Se non le hai, è inutile. Allora non puoi andare a cena con Cameron. Se ti interessava andare a cena col primo ministro inglese per, non so, mangia? Fargli passare lì a Downing Street. Costa così tanto. Riceve chi vuole 300.000 euro. Tac, va a cena con lui. Se tu hai un'azienda così che deve prosperare, vai lì e cerchi di convincerlo. Proviamo a investire anche pubblicamente. Cioè, è successo questo scandalo, insomma, in Inghilterra. 300.000. Quindi paghi per andare a cena col primo ministro. Ma in Italia fino a poco tempo fa c'era gente che per andare alle cene al primo ministro veniva pagata. Sì, però quelle erano cene eleganti, quindi c'è una bella differenza. Cioè, se tu metti cene eleganti, da onerose le cene diventano fonte di guadagno. È una cosa così. Basta dire eleganti. Cene eleganti, insomma, era una specie di lavoro. Comunque si riferisce tutto questo al passato governo. Sì, ovviamente governo passato, sì, passato governo. Passato. In questo momento il presidente del Consiglio è Super Mario Monti e lui cene eleganti non ne dà. Diciamo che forse per andare a cena con Monti molto probabilmente non paghi, ma nemmeno vieni pagato. No. Cioè paghi solo la tua parte, certo, alla romana. Oppure puoi decidere di pagare solo l'antipasto e il primo, se hai preso un antipasto e un primo e non vuoi dividere, perché se per esempio Monti si è mangiato un sacco di cose, tu hai preso solo un antipasto, poi alla fine dice, facciamo la romana, e tu dici vabbè, ma io veramente ho preso solo un antipasto, devo pagare 35 euro. Comunque è come andare a cena con una persona normale, andare a cena con Monti. Si è saputo di gente che era disposta a pagare pur di non andare a cena con Super Mario Monti, addirittura. Sì, ma sai che palle con la cena col professore. Però ho visto che la Camusso a Cernobbio 10 giorni fa col professore se la rideva di gusto, altro che. Ma chissà cosa aveva bevuto. Chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto, chissà cosa aveva bevuto. Questa è Isabella Manzini. Che ride un po' più forte? Che bello chiudere in allegria, eh? Vabbè, siamo alla metà della settimana, dai, K, siamo vicini quasi al venerdì, quindi dai, eh? Come saluta. Le risate finte nelle sitcom, risate tutta, tutte gente morta. Sì, hai ragione, tutte le volte, i fantasmi.